Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti, ben trovati in frequenza. Questa è Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale chiamata Rock Wave, l'onda del rock. Oggi è mercoledì 18 luglio del 2012. E una buona serata vi arriva da Flavio Bilato e da Maurizio Calzavara, che insieme a me conduce questa trasmissione. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, non vediamo l'ora di presentare quelli che sono gli ospiti di questa sera. Vengono a trovarci dalla provincia di Verona e quindi diamo subito il benvenuto agli Anker. Buonasera ragazzi. Ciao. Buonasera a voi. Ciao a tutti. Allora, innanzitutto, come sempre si chiede, fatto buon viaggio? Buonissimo. Buonissimo. Qualcuno di voi conosceva già la strada, quindi sì, l'hai sì, esattamente. Amici, l'ho sì. fatta anche ieri per lavoro. Ah, l'hai fatta anche ieri. Quindi... abbiamo ascoltato i Madre Deus. Beh, beh, ecco, no, bene. È un'ottima un'ottima colonna sonora. Ci siamo comunque avvalsi del GPS. Ah, ecco, ecco, per arrivare, per sì. non rischiare. No, già che si parlava e soprattutto del metano, ecco, certo, che ci dà sempre una mano in questo caso. Ecco, tu hai parlato in principio di Madre Deus, con o senza Teresa in questo caso? Perché con. L'ultimo album è senza con... Teresa Salgheiro, no, mi no, con un con... vecchio disco, adesso non ricordo il nome, sì. Ne ho tre, però sì, con lei, ma non in tutti i pezzi. Benissimo, poi c'è Teresa Salgheiro che è uscita con un nuovo disco, ne parlano tutti molto bene, registrato in un convento assieme ad altri musicisti di grande spessore. Veramente vale la pena di vederlo. Però piccolissima parentesi di Madre Deus e Teresa Salgheiro, tanto per dimostrare la nostra preparazione musicale sempre molto alta, così ogni tanto osiamo anche prenderci in giro. E Anker, questa sera si parla di voi ragazzi, quindi diamo il benvenuto a Giulio, Zeno e Tobia, che insieme formano gli Anker. Allora, per parlare in principio si chiede sempre come mai la formazione ha preso questo nome, Anker, scritto proprio Ancona, Napoli, Como, Hotel Empoli, Roma, e non dato al, come dire, all'inglese, come potrebbe essere un Anchor o qualcosa certo. del genere. Era nostro obiettivo. Era il vostro obiettivo. Cioè, non volevamo un nome inglese perché cioè, l'abbiamo deciso nel 2005-2006. Il viaggio in Danimarca 2005 allora. Esattamente. Ah, esatto, 2005. Grazie per venirci. Ho letto, informazioni qua davanti. No, no, esatto. Lo storico Maurizio è sempre in acqua. Grazie allo storico. Ricordatevi le cose giuste. Ci è voluto tempo per deciderlo. Per confermarlo ci è voluto un po' di tempo, però sì, avevamo come obiettivo il trovare un nome che non fosse troppo... così una parola italiana e al tempo stesso non fosse il solito titolo inglese, nome inglese che già anni fa andava molto e niente, eravamo in Danimarca e con un nome da trovare nello Jutland, esattamente a Skagen, che esatto. è la punta dove... è una particolarità questo luogo, esatto, dove confluiscono... una particolarità molto bella dove confluiscono due mari che proprio sulla punta si scontrano, quindi è un bellissimo spettacolo da vedere. E eravamo lì in viaggio e abbiamo visto questa esibizione, questa mostra di quadri impressionisti danesi e niente, questo pittore chiamato appunto Anker ha dedicato gran parte della sua produzione a ritrarre scene di pesca molto suggestive, quindi gente di mare ma ritratta in momenti molto, molto particolari, molto emotivi. E abbiamo pensato all'inizio, proprio senza troppo pensarci, beh, potremmo chiamarci così, e dopo è stato confermato dopo poco, insomma. Quindi questa situazione vi ha creato appunto una buona base di... Sì, è stato un buon auspicio, perché all'epoca non avevamo in realtà così tante influenze di sound nordico. È stata una cosa che è successa dopo, diciamo, anche come ascolti di riferimento o comunque il fatto che siamo una band italiana che canta in italiano, ma sono poche le canzoni dove c'è più sapore mediterraneo che oltralpino, diciamo. Ma all'inizio erano molto strumentali le vostre canzoni? Sì, all'inizio era molto diverso il genere, era molto più legato ad ascolti, diciamo, liceali, più rock, smaccatamente rock, addirittura noise, gli ascolti di allora, noise, gli ascolti di allora, anche insomma, se qualcosa di noise c'è nel disco, alla fine. No, però allora possiamo... c'era tanto, come ascolti ovviamente, c'era tanto Sonic Youth, Motor Psycho, Radiohead, insomma, tante cose messe insieme, ma appunto era molto più strumentale, molto più post rock. Poi negli anni il suono è cambiato e le influenze, le intenzioni, tutto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che dalle 22 alle 24 ci sarà l'appuntamento appunto con Anker per la presentazione del loro disco, si intitola Verde Legno, poi ne scopriremo tutte le caratteristiche non solo sonore ma anche quelle proprio... Avete già sentito la copertina, più tardi vi descriveremo anche la, diciamo, la custodia del CD, che merita veramente due parole in più. E allora, per conoscere la musica degli Anker, direi di far spazio subito a una canzone da disco per poi tornare a parlare della vostra bella musica. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. assorbo l'acqua per privarmi del tuo sale. Trattengo il fiato per guardare la nuvola che sale. Seguo le tue orme col timore che sia il sole. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Abbiamo messo alla prova l'onda del rock contro una ferma foglia, in questo caso la canzone esatto. dei Anker qui a Blu Radio Veneto. Verde Legno si intitola il loro ultimo lavoro e ci siamo ascoltati, la traccia numero 7 si intitola Ferma Foglia. Tra altre cose, ascoltando appunto le vostre canzoni, è bello anche collegarsi sul vostro sito internet e seguire i testi, che non sono scritti in un normale Arial quale carattere di Word, diciamo, per citare uno dei più famosi, come dire, sistemi di scrittura da computer, ma veramente dei fogli di carta che poi avrete diciamo scannerizzato, esatto, con tutte sì. le vostre correzioni, ma soprattutto con tutti i vostri bei colori che volete inserire nelle vostre parole. Sì, abbiamo fatto questo, è un papiro, è tutto un pezzo unico di carta sì, che sì. vorrei incorniciare, farmi una bella lunga striscia che mi rifà tutta la stanza così. Ma l'abbiamo fatto così, è tutto fatto a mano, appunto ho tutto scritto a mano con vari disegni che richiamano alle figure poetiche, così, alle figure naturalistiche o di inquinamento dei nostri brani. E si possono leggere lì su anchor.it e se volete dargli un occhio ovviamente siamo contentissimi. Abbiamo anche un nostro quaderno personale, abbiamo tutte robe fatte a mano, anche i conti li facciamo sempre su carta perché amiamo molto il lato artigianale, non riusciamo più a capire niente. E infatti ci stava anche con il concept del disco, insomma, così per certe parole sono un po' indecifrabili sì. Quello è un po' un problema. Parliamo anche, se riesci a fare una prosa di quella che è la canzone di Ferma Foglia. Beh, quello è stato uno dei pochissimi, se non credo, forse l'unico pezzo, non solo di Verde Legno, ma che in generale abbiamo scritto, dove abbiamo unito pezzi scritti da uno e dall'altro, sia musicalmente che... Quasi. Beh no, musicalmente sì, ci abbiamo lavorato insieme e c'era una struttura di base, ma come testo abbiamo proprio unito il ritornello di uno con la strofa di un altro, quindi sono proprio parole e registri diversi che poi quando qualcuno ci conosce bene è molto probabile che riesca a capire, perché sono proprio modi di scrittura diversi, uno un po' più narrativo e concreto, quell'altro un po' più sognante e metaforico, e li abbiamo uniti insieme ed è stato credo l'unico caso in cui abbiamo fatto questo esperimento di lavoro a più mani, e ha funzionato molto bene secondo noi, perché no, diciamo che il ritornello e la strofa come mood, come sensazione generale si fondono bene, quindi e il senso generale è nato, diciamo, come testo dopo un periodo, un inverno abbastanza difficile che avevo vissuto in Austria, dove causa la lingua che allora non padroneggiavo ancora, un distacco dalla fidanzata di allora, dagli amici, da cose varie, era voglia di primavera, detta così proprio... Certo. Scavalcando la poesia. Era sì, lo specchio di, diciamo, di mesi invernali parecchio rigidi d'Oltralpe. Hai detto di voglia di primavera, un critico giustamente ha scritto tropicalismo easy, sono perfettamente d'accordo, tropicalismo, c'è un po' di sonorità un po' tropicali, cioè qualcuno ha parlato di brasiliano, di Brasile, qualcuno ha parlato di Kings of Convenience, qualcuno ha parlato del post rock, qualcuno ha parlato del jazz, soprattutto del jazz, là c'è un grande musicista jazz che suona là. Sì, noi come ascolti, come gusti, Non ci prefiggiamo barriere, direi che siete aperti, è un grande pregio, cioè pregio oppure insomma una cosa che ci fa piacere, che tutti e tre condividiamo questa cosa, che non ci limitiamo a un settore musicale, ma siamo aperti, e soprattutto se uno dei tre porta un disco, qualche nuovo artista conosciuto, siamo sempre molto interessati a questo. Infatti, nel caso di Fermafoglia è un pezzo che appunto ha preso, diciamo, da solo questa piega in parte bossa noveggiante, in parte jazzata, jazzista. Il jazzista dà un certo peso. Esattamente, cioè il solo che si sente non è di fisarmonica, anche se è un timbro molto simile, ma è di vibrandoneon, che è uno strumento abbastanza raro, è una melodica però professionale, quindi con tutta una meccanica molto più seria, è i tasti, il modo per far... diciamo scivolare la saliva in modo che non blocchi i tasti, così e l'ha suonato un nostro amico comune che è Federico De Vittor, che al momento suona e vive a New York e studiava con me in Austria, è un bravissimo pianista e è stato bello perché è venuto in studio in un clima di amicizia perché era amico di tutti e tre e nel giro di due take avevamo già trovato quello che volevamo, gli abbiamo detto grandissimo, portata a casa e via. In 4-4-8, mentre noi siamo stati molto più lenti a registrare tutto. Lui è arrivato e da buon jazzista è partito ed è andato. A proposito di registrazione, diciamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione la stiamo rigorosamente registrando anche per poi farla, per inserirla all'interno dei nostri archivi sonori in maniera che ci si possa poi anche riascoltare piacevolmente, così buona la prima. Allora, siamo presenti anche in streaming audio all'interno del nostro sito internet bluradioveneto.it, cliccando all'interno della notizia riservata agli anchor c'è lo spazio per la diretta audio, quindi state con noi anche con il computer se non vi basta la radio. Poi diciamo che durante la trasmissione saranno anche scattate alcune foto, tanto per documentare l'evento, e per l'occasione c'è il fotografo professionista Maurizio. Sì. Benissimo, allora gli anchor abbiamo aperto con un pezzo da disco, ora visto che si sono portati ben tre chitarre e qualche percussione, ascoltiamo un primo brano che so non far parte del disco, è appunto Verde Legno, ma so che ci volete regalare qualche sorpresa durante questa serata, tanto per renderla esclusiva. Allora, da cosa partiamo? Partiamo da L'Airone, che è un titolo forse definitivo, forse no, sarà di sicuro un pezzo del prossimo album che speriamo di iniziare a registrare, insomma, molto in autunno. Molto presto. È un pezzo che le parole mi sono venute, poi le abbiamo fatto tutti insieme, l'abbiamo arrangiato tutti insieme, le parole mi sono venute proprio da un viaggio da Verona a Padova facendo la strada normale, quindi facendo la statale che non passa più perché non volevo spendere soldi di autostrada. E ho visto un airone e un contadino, era l'unica cosa naturale che ho visto in mezzo a questi capannoni, insomma solita pianura padana, tornato dall'Islanda, non c'avevo più voglia, così andavo a lavorare a Padova e allora mi è venuta l'ispirazione di scrivere queste parole per questo pezzo. Che vediamo l'airone, l'unica persona nel Veneto che l'ha visto sulla strada tra Verona e Padova. No, sull'autostrada se ne vedono molti da soli che viaggiano sopra i camion, ci sono questi aironi cenerini che adesso lui è definito Air One perché diventerà elettrico anche lui, va bene. Airone allora con gli anchor Blu Radio Veneto. Solo spazio pienamente costruito, in tre ore di statale rimane da incontrare un solo vecchio contadino. Lui è alle prese con la vite, un po' con la sua vita, d'uva dolce nella vite. L'unico che l'accompagna è un airone cenerino che gli rompe tutti i chicchi per il vino. Tutto nuovo che schifezza, è un grigio riflesso, una miriade di cartelli, insegne e ferri. C'è una cosa illuminata, ci batte buona luce, il grande monte che si vende all'orizzonte. Chiedi al contadino chi ha distrutto il suo destino. Lui chiede all'airone che dall'alto in là ci vede. È tutto costruito, non c'è spazio per la vite. Tuba marcia, sa di ferro, tra le gomme incenerite. Non ha senso chiudere il ciclo che rimuove la vite dal terreno sottile dove ora il contadino e l'airone qui non hanno più lo spazio per finire la loro vita. Non distingo più le cose, forse era una gru che si portava via le case. Dove c'era il contadino, adesso ci son piume dell'airone rosso vino. Poi arriva una tempesta, un sabato di luglio e sento il ghiaccio che mi pesta. Ricomincia dai coralli e la roccia si ricopre di lapilli, felci e gigli. Tutto nuovo c'è la lava, il cratere si ribella e la pianura poi si lava. Trovo un resto di casello e la sbarra che mi blocca per pagare la mia strada. Chiedi al contadino chi ha distrutto il suo destino. Lui chiede all'airone che dall'alto in là ci vede. È tutto costruito, non c'è spazio per la vite. L'uva marcia, sa di ferro, tra le gomme incenerite. Non ha senso chiudere il ciclo che rimuove la vite dal terreno sottile dove ora il contadino è l'airone. Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Benvenuti ancora alle nostre frequenze, benvenuti in streaming audio. Questa è Blu Radio Veneto e questa è Rock Wave, l'onda del rock. Dalle 22 alle 24 siamo insieme agli Anker e noi siamo Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Loro sono Giulio, Zeno e Tobia che appunto insieme formano gli Anker. Abbiamo ascoltato questa canzone dal vivo, si intitola Airone o L'Airone. E in questa canzone assolutamente di messaggio naturalista, diciamo, non è colpa dell'airone alla fine. No. Alla fine è sempre colpa dell'uomo. È certo. È certo, perché... Anzi, lui è l'unico che può vedere cosa sta succedendo perché sta sopra, quindi... Sta sopra, quindi... Non ha più la nebbia, riesce a sovrastare la nebbia che poi in veronese... E anche la questa gru. Questa patina... anche la gru riesce a sovrastare. Anche la gru, che caso... poi quella lì è una metafora, perché vuol dire tutte e due le cose. Vuol dire sia una gru che stia costruendo nella pianura padana, maledettamente costruita, e una gru ovviamente... Un suo simile. Un suo simile dell'airone. Il compagnone. È un pezzo folk aperto, possiamo dire folk aperto, diviso in tre parti. Un inizio in una certa maniera, poi un'accelerazione, poi un ritorno alla normalità e un'accelerazione ancora. Soprattutto la tua voce, poi gli incastri vocali. Sono molto... Qualcuno qualche critico ha scritto da questo disco, ma anche qua si può dire un po' Brian Wilson, un po' a Beach Boys, qualcosina c'è, questo incastro vocale, questo bucolico, ma fino a un certo punto bucolico, per far sentire un po' di musica popolare tra virgolette. Però cosa dici, Tobia? Beh, sì, siamo tutti molto legati alle armonie vocali, perché semplicemente, anche proprio per il fatto che abbiamo iniziato come gruppo strumentale, ci siamo forse negati, senza, non volontariamente, nel senso che ci sembrava bello all'inizio fare musica strumentale, poi dopo un po' abbiamo visto che era una strada che un po' ci chiudeva altre strade, e quindi non è che noi non siamo contro la musica strumentale o contro il post rock, semplicemente abbiamo visto che le voci ce le abbiamo e possiamo, quindi usarle, possiamo usarle, chiaramente. Ed era altri colori, altra atmosfera che potevamo aggiungere alle nostre canzoni, ed effettivamente adesso è una cosa su cui è proprio uno strumento che vogliamo usare, e le armonie, e quindi appunto i Beach Boys sicuramente, come molti altri gruppi, hanno proprio aperto tantissime strade nel pop e rock, e quindi noi ci siamo anche nel post rock sicuramente, sì. e quindi insomma ci piace seguire anche questo discorso. Cari ascoltatori, Flavio forse non ha visto tutto, dobbiamo studiare che Giulio è un one man band, perché aveva anche le percussioni, e poi avevi un aggeggio sotto. Giulio, che cos'è quella? Bah, sono dei campanellini. Vedi, c'è anche qui. Sono coi piedi, Coi piedi. Si sentono presto lo vogliamo addobbare come in Mary Poppins. Avete presente quel mitico personaggio che piega la testa e c'ha il clacson? È fantastico. Oppure come uno di presto Giulio diventerà così. A volte io e Tobia ci stiamo lavorando. Otto e Barnelli. Esatto, proprio quello. Bravo Flavio, proprio quello. Otto Barnelli. Ancora molto tempo fa, con l'altra domenica, diventarono famosi per merito di Arbore, in questo caso. Benissimo, allora torniamo a parlare con gli Anker e del loro CD, che ha una struttura davvero particolare, e torno a ripetere il rumore. Ecco qua. Allora, questo rumore, dovete sapere, cari ascoltatori, che è un legno che arriva direttamente dall'Austria, no? E che è stato tagliato a mano. Con le vostre mani, tra l'altro. Allora, io sono andato in una falegnameria di un amico di mio padre fa l'architetto, così abbiamo amici in comune con falegnami, e non è che lui non mi fa usare le sue macchine, effettivamente l'ha tagliato lui, però insomma ero lì presente, ma quello era il lavoro più breve di tutti, che era prendere i pannelli, tagliarli in quadrati. Poi dopo il lavoro lungo è il nostro, perché noi assembliamo tutti i dischi a mano con colla, che è l'unica cosa poco ecologica che dobbiamo usare. Giovanni Mucciaccia, abbondante colla vinilica, no? Vinilica. Nel suo art attack. Anche se ultimamente abbiamo trovato... siamo migliorati. Abbiamo passato varie fasi, cioè questo assemblaggio artigianale del disco ha visto veramente varie fasi. All'inizio eravamo molto imbranati e ci impiegavamo tanto tempo per fare i dischi, quindi era ancora di più una cosa un po' più brutta, una cosa lunga. questa è migliore, effettivamente. Però sono tutti dei pezzi unici, perché le venature del legno, per ovvi motivi, disegnano loro la copertina di ogni copia, e ognuna è diversa. E poi anche il fatto che il titolo e la tracklist sul retro sono tutti e due timbri, quello sul fronte fatto a fuoco e quello sul retro a inchiostro, che facciamo noi, e quindi anche lì dipende dove facciamo il timbro, quanto pressiamo, quanto inchiostro, oppure quanto lungo sul fuoco teniamo il timbro, quello di metallo, che quindi a seconda diventa più... leggero più caldo, e poco leggibile. In alcuni casi addirittura ci è venuto l'effetto doppiato, che sembra che ci sia la scritta con la sua ombra, o in altri in cui avevamo tenuto tanto il timbro, allora è rovente ed è proprio marchiato. Quindi ogni copia è proprio un pezzo unico in questo senso. E anche come colla abbiamo visto a posteriori si può usare molta meno colla. Sì. All'inizio ci siamo un po' intossicati, infatti abbiamo tutte le mascherine come se fossimo proprio metalmeccanici. E poi tra le altre cose prossimamente userete anche la farina mista d'acqua, che dicono e poi lo sia una buonissima colla, no? Faremo il fluido non newtoniano su... ecco faremo di quello sempre per parlare un po' di dischi ad alto diciamo impatto ecologico. Benissimo, allora quindi abbiamo anche svelato la costruzione di questa copertina davvero particolare, però per saperne ancora di più rinviamo anche gli ascoltatori al sito internet anchor.it. All'interno di questo sito c'è anche un vostro filmato che vi fa che vi vede all'opera proprio per la costruzione di queste copertine. Sì. Due che lavorano, uno che guarda suonando, no? In questo caso. Beh, che rispecchia abbastanza l'Italia. L'Italia, sì. L'Italia. Certo. No, vedi, scherzo. Che alla fine abbiamo fatto la nostra amara riflessione sociale. Sì. Senza volerlo. No, infatti in quel video si capisce anche un po' di più che non abbiamo detto che l'interno è tutto verde in carta, sì. È un cartoncino su cui noi incolliamo il legno, infatti l'interno è tutto un cartoncino sempre disegnato da noi, pirografato, e insomma abbiamo fatto anche lì un disegno sul legno, l'abbiamo scansionato e l'abbiamo trasportato su carta. Anche quello segue il concept dell'artwork in generale, che è appunto corteccia fuori, verde dentro, quindi proprio come se fosse un albero disco, insomma un pezzetto di proprio di natura catturata. Per curiosità, quanto ci mettete copia per copia? Adesso molto meno, molto meno di poco tempo. Adesso se siamo tutti e tre in cucina, laboratorio, attivi, ne facciamo 30 copie in un quarto d'ora. Quindi siete velocissimi, insomma. Ormai sì. 20 minuti. Un anno e mezzo. Minuto, un anno e mezzo di tentativi. 30 minuti, secondo me. Sì, mezz'ora. Mezz'ora. Meglio di una casa discografica, secondo me. Ecco qua. Finché non siamo famosi va benissimo così. Però, se un giorno ci fosse un botto dovremmo assumere del personale. Un falegname. Vabbè, allora, Anchor Verde Legno si intitola il loro ultimo lavoro, e quindi che ramo ascoltiamo adesso di questo vostro albero così bello? Ramo dei sogni. Il ramo dei sogni. Dell'infanzia e dei sogni. Dell'infanzia. E delle ninne e nanne. E quindi diamo spazio a Ninna Nora per poi tornare a commentarla insieme. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Thank you. Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ancora buonasera e buon ascolto, questa è Blu Radio Veneto, siamo insieme agli Anker, arrivano da Verona per presentarci il loro Verde Legno e non solo, perché poi nel corso della trasmissione ci regaleranno alcune chicche inedite o non contenute all'interno di Verde Legno, così da poter rendere la nostra registrazione, il nostro archivio sonoro un'esclusiva per Blu Radio Veneto. Quindi ancora buonasera ragazzi, buonasera Giulio, a Zeno, Tobia, ciao. Insieme ciao. A Anker. Abbiamo ascoltato un pezzo dal vostro disco, si intitola Ninna Nora, più che una ninna nanna come si diceva all'inizio, è proprio il ricordo vago di un sogno e quindi una spinta verso quelle che hanno definito i critici l'atmosfera un po' più nordiche. Prima abbiamo ascoltato qualcosa di più, diciamo, leggero, legato chi vuole al Brasile, chi comunque ad atmosfere più mediterranee. Adesso ci spostiamo direttamente nel nord con questa canzone, appunto, che si intitola Ninna Nora. Beh, questo pezzo è nato a Reykjavik in Islanda durante il mio periodo di Erasmus là di un anno, e sono venuti anche Zeno e Tobia, abbiamo fatto anche delle registrazioni là, bellissimo Glockenspiel del mio coinquilino. Ovviamente mi sono avvicinato ho fatto tanti giri il più possibile, anche se lì l'autostop è di ordine del giorno, quindi d'estate, perché d'inverno è infattibile. Cosa fanno, Reykjavik, Kopavogi, qualcosa del genere, no? Kopavogur, ecco. Mi pare di ricordare. Ma fai il giro oppure vai anche a 50 minuti, si arriva in questa valle incontaminata con fiumi bollenti, dove si possono fare le terme, e poi stai lì così. E ho sognato tanto in Islanda, ho fatto dei sogni pazzeschi. Tra l'altro l'Islanda, io ci sono andato, prima di andare in Islanda avevo sempre dei sogni ricorrenti. Appunto mi immaginavo questa terra un po' assurdamente piena di maghi e cose, con queste colline verdi, montagne verdi. Sognavo, vivevo a Venezia al tempo e sognavo ogni notte di andare in Islanda. E dopo ce l'ho fatta con l'Erasmus, così. Sei stato nel periodo chiaro o nel periodo scuro? Tutte e due, bene. Da gennaio ad agosto inoltrato. E quindi ho vissuto tutto appunto dallo scuro al chiaro totale. E quindi hai capito anche la forma di ispirazione che hanno quei cantanti islandesi. Ci sono proprio degli artisti anche americani da tutto il mondo, e io non lo sapevo ovviamente, che vanno là proprio a cercare ispirazione, a farsi giri e cercano l'ispirazione, perché la terra, le cose naturali sono 10.000 volte più veloci di qua. Cioè, se uno strato geologico si forma qua in un milione d'anni, lì si può formare in un anno. Quindi tutte le cose naturali hanno un carico e una velocità pazzesca, mentre il tempo in sé sembra andare a rilento, appunto, proprio per questa cosa del sole che non arriva mai, oppure che ci mette, che non va più via. Quindi insomma mi è venuta l'ispirazione per fare questo brano, che poi è, appena sono arrivati i ragazzi, mi ricordo che li avevo fatto sentire, abbiamo messo i cori così, e al ritorno abbiamo assemblato tutti. Insomma, l'avete inciso. Abbiamo inciso, sì. Musicalmente tu canti in modo molto particolare, un pezzo amelodico al 100%, la melodia è tirata all'impossibile, sì. Poi viene fuori in un momento e poi sparisci, sì, in un'altra volta. Perché è un po' alto per me, molto alto, sì, esattamente, quasi fosse un urlo, un continuo, sì, urlo, esatto. È stata dura la registrazione di questo pezzo, perché non sapevamo se farla o soffiata, però avrebbe avuto molto meno carico, o appunto come è venuta fuori alla fine, che è tra l'altro su questo brano abbiamo sperimentato vari tipi, volevamo trovare un riverbero naturale, non solo cantarla e aggiungere poi l'effetto in post produzione, e siccome abbiamo registrato in una sala molto grande questa canzone, mi ricordo che abbiamo provato, perché non lo sapevamo né noi né il fonico, eravamo sicuri di questa cosa. Possiamo citare il nome del fonico? Certo, assolutamente, anzi vogliamo citarlo, è Francesco Ambrosini, che è il nostro fidatissimo bellissimo fonico, spesso anche live, ma di sicuro su tutto quello che riguarda la registrazione in studio, almeno finora, ma ci auguriamo e crediamo che lo sarà anche per il prossimo album. E abbiamo appunto messo dei microfoni lontani e abbiamo cantato in angoli diversi della camera in modo che ci fosse un gioco di rientri e questo ha funzionato molto per dare questo tipo di riverbero naturale, anche se ci sono riverberi ovviamente ottimi in post-produzione, sì, certo. Però è stato bello giocare con questa cosa. E poi tornando a Ninna Nora volevo aggiungere giusto un paio di cose, che sì, appunto, che l'Islanda si lega tantissimo all'elemento del sogno, che nei nostri testi e nelle nostre musiche ricorre moltissimo, molto spesso, e anche questa caratteristica musicale che hai detto tu, hai citato della un po' dissonanza cromatica nella strofa e poi invece della consonanza e dell'armonia delle voci che diciamo calzano di più nel ritornello, è anche quello un elemento che, come anche in Torace Brace e in altre canzoni, c'è questo aspetto dualistico o comunque non lineare che è tipico dei sogni, che noi cerchiamo di ricreare, oppure che comunque ci influenza quando facciamo una canzone, nel senso che appunto i sogni non sono come la realtà, ci si può trovare alle 2 di notte in un incubo orribile, alle 2:30 invece nel paradiso, e questo è anche quello che succede a noi. Ultima cosa da dire su Ninna Nora, che uscirà a brevissimo un video. Noi abbiamo già realizzato un video di Torace Brace, canzone che ho appena citato e che eseguiremo dopo qui dal vivo. Sì. E Torace Brace appunto è il primo singolo, era stato un video anche quello realizzato da noi stessi con tecnica artigianale. Abbiamo animato in stop motion delle diapositive di famiglia dei anni, tra gli anni 60 e 80, in parte in Islanda, in parte nei Lessini, quindi nella Lessina, no, le nostre montagne, diciamo. E quindi quello è un video artigianale che è già uscito in anteprima su Rockit e c'è visualizzabile sul nostro sito, sul nostro Facebook, diciamo in generale sui nostri canali. E a giorni uscirà appunto quello di Ninna Nora, che invece questa volta è più tradizionale. Due nostri amici registi, Ludovico Chincarini e Alessandro Ambrogi, hanno girato questo video. L'abbiamo girato in paesaggi naturalistici delle nostre zone, molto belli, e insomma speriamo che esca veramente a breve. Non compariamo noi comunque. Ancora no. Ancora no, più bene. Natura, noi no. Allora abbiamo parlato di Islanda, però adesso ci dobbiamo spostare in posti ancora più freddi dell'Islanda, dove troviamo degli altri uccelli particolari. Prima abbiamo parlato di airone, del clima mediterraneo, ora altri uccelli con le alucce un po' più piccoline che sono molto goffi nei movimenti. Stiamo parlando non degli speaker di Blu Radio Veneto in questo caso ma dei pinguini ai quali voi avete dedicato una canzone, quindi ce l'ascoltiamo dal vivo con gli Anker. Sopra il ghiaccio che si scioglie, l'aria nera non si toglie. Tra le nubi dei camini, sopra il ghiaccio che si scioglie, l'aria nera non si toglie. Nella campagna un'ape vola, si rigira, ma chissà se tornerà, se la sua strada troverà. Vogliamo seguire i pinguini tra le nidi dei canini, sopra il ghiaccio che si sciolge, la sua strada troverà. Andate vola, si rigira, ma chissà se tornerà, se la sua strada troverà. Sopra il ghiaccio che si scioglie, l'aria nera non si toglie. Vogliamo seguire gli squali tra gli abissi dei fondali, sopra il ghiaccio che si scioglie, l'aria nera non si toglie. Ma chissà se tornerà, se la sua strada troverà. Di queste creature apparentemente esili che però sanno tirare fuori il becco quando serve, nel senso che si sanno difendere molto bene, i pinguini a Blu Radio Veneto, no, anzi gli Anker a Blu Radio Veneto con questa canzone Pinguini Anker che si intitola Pinguini per l'appunto. Allora sì, abbiamo dedicato quindi una canzone anche a questo genere di uccelli. Come mai, visto che andiamo verso il nord, avete scelto questo uccello che non può volare, ma che vede il mondo da una visuale un po' diversa? Dal sud dal sud più profondo. Beh, dall'Antartide, è il sogno, sì, di andare in Antartide, in verità, questo pezzo dove si spera che qualche strato di ghiaccio sia ancora pulito e non si siano depositati tutti i gas possibili dell'atmosfera. Infatti l'acqua nera non si toglie, sono tutte frasi insomma così. Però nasce in verità anche per i bambini questo pezzo, infatti sento un po' che è un po' bambinesco, perché insomma quest'anno ho lavorato tanto con i bambini e mi è venuto Giulio è il maestro della filastrocca. Poteva essere anche, esatto, una filastrocca, esatto, questa sta qua. Arrivando, insomma è arrivato l'ispirazione dai bambini, è venuta questa. Poi c'è un sogno nel cassetto che è quello di fare un audiolibro, esatto, illustrato e tutto insomma. E l'impasto vocale finale poteva essere da presentare un coro di voci bianche, tra virgolette, sempre tra virgolette, voi non siete più voci bianche, però poi si può immaginare. Tobia va alto, eh. Tobia va alto, si può Tobia, questo è una cosa in positivo in questo pezzo. È altissimo e va alto. Essere alto, molto alto. E ha cominciato a giocare nel senso positivo del termine, con l'acustica, e vi ha dato l'input per poi proseguire. Poi ha cominciato a cantare te, poi anche poi hai collegato te il canto, vi siete intrecciati vocalmente. Sì, sì. Era molto difficile questo pezzo, secondo me, molto complicato, cosa dici? Sì, no, io l'ho visto molto complicato. Ovviamente rispetto agli altri pezzi è l'unico dove abbiamo fatto questo mini canone, dove praticamente due strofe sole compongono il testo. Sì, perché tu, Zeno, rispondevi a lui. Esattamente, mica semplice. Cioè, intro a canone rispetto a quello che canta Giulio, e quindi si crea questo incastro. In realtà È già da un po' che cerchiamo di convincere Tobi a fare la terza entrata a canone. Non fa un po' il timido, fa un po' il timido. Sì. Dopo non si capisce più niente. Però pian pianino ci no, forse in questo pezzo no, però appunto abbiamo... ci sono possibilità, ma di... i ruoli erano totalmente distinti, questo pezzo. Sì, no, Susano e Giulio chiaramente voi eravate distinti, anche sì. Se l'intreccio poi faceva parte del pezzo, però certo, i ruoli certo, erano certo. Completamente distinti, no, però giocare con questi elementi vocali è anche parte di una psichedelia sì. Che in alcuni gruppi apprezziamo molto, anche gruppi che non c'entrano assolutamente niente con il risultato musicale, che, musicale Anker, però per esempio Animal Collective, sì, vero, molto più elettronici, molto più assolutamente su altri lidi, però anche tornando indietro possiamo parlare di Phil Spector, praticamente sono partiti tutti da lui queste cose. Phil Spector faceva soul, ma non solo faceva sti intracci vocali, esatto. E quindi vabbè, quella è una componente che rende la psichedelia musicale secondo me ci sta, anche perché ci seguiamo in verità ci seguiamo, quindi il testo ovviamente proviamo a seguire i pinguini, quello è il messaggio numero uno. Sì. Ci proviamo a seguire questi animali puri che non hanno neanche ancora visto magari certi la tecnologia, a parte quelli negli zoo che stanno lì. Una volta sono entrato in uno zoo, probabilmente è un ricordo di quella bruttissima esperienza che ho fatto. Sono andato in uno zoo con i miei genitori, così in parco, e c'erano questi pinguini dentro a una sala ricreata, e eravamo a Tenerife. Quindi ecco. C'erano dei pinguini a Tenerife, sì. E da lì probabilmente è scattata anche la mia voglia di studiare scienze ambientali e tutte queste cose. Meglio qui. Vedere i pinguini dello zoo di Madagascar, quel cartone, il cartone animato che li rende personaggi veramente infallibili, intelligentissimi e anche simpaticissimi. Allora, il vostro lavoro è stato registrato nello studio Sotto il Mare di Povegliano, quindi in provincia di Verona, ma avete mai seriamente pensato di mettervi a registrare in un campo o in un bosco la vostra musica? Beh, se metti proprio in un bosco magari no, ma potremmo anche farlo sicuramente. Per il nuovo disco sperimenteremo in maniera diversa lo studio di registrazione, nel senso che per questo disco Verde Legno, quello che abbiamo registrato ormai 2 anni fa, e abbiamo ho scelto delle tecniche di registrazione molto di sovrincisioni, nel senso che si registrava traccia per traccia, pian piano creavamo questi pezzi che sono abbastanza ricchi appunto di suoni, alcuni sono proprio pieni di suono, ed era anche quello che cercavamo all'epoca. Adesso abbiamo notato, soprattutto suonando più live, perché quel disco precedente veniva da un periodo in cui provavamo poco, ci vedevamo solo pochi, due volte all'anno, tipo per un mese, tipo le vacanze di Natale, le vacanze d'estate, perché poi vivevamo in stati diversi, e quindi era una maniera diversa di lavorare, nel senso che componevamo a distanza, e quindi raccimolavamo idee, pensieri, canzoni a distanza, poi ci trovavamo e avevamo molta energia che però fuoriusciva in maniera non equilibrata tra virgolette, mentre adesso che è da ormai un anno e mezzo che suoniamo, siamo tutti tornati a Verona, suoniamo di più, ci scambiamo quotidianamente idee e musica, e quindi abbiamo visto che adesso il livello invece del suonare assieme con 3 strumenti, 3 chitarre, poche percussioni, cantare assieme in situazioni ristrette, e avendo fatto tanti live abbiamo visto che ci piace di più la dimensione quella del minimalismo tra virgolette, nel senso di cercare di rendere con poco rendere tantissimo, mentre prima cercavamo di rendere tantissimo con tantissimo. Ovviamente niente è sbagliato e niente è giusto, semplicemente sono modi diversi di pensare la musica anche dal punto di vista di registrazione. Certo, hai citato la città di Verona dove vi trovate, sì, per le prove, ma è la vostra città un piccolo jingle, sì, per piccolo Verona. Jingle per Verona. Allora è la vostra, beh, facciamolo dai. Verona. tristissimo. Non è così, così drammatica la vita a Verona. La nostra base musicale. No, allora ti stavo appunto chiedendo, Verona, come risponde di fronte alla vostra musica? L'ampio sottobosco musicale che so essere esistente in quel meglio livello. Padova. Sì, in realtà risponde forza come Padova. Risponde come può rispondere, nel senso che a Verona non c'è né una particolare scena, diciamo, molto interessante, nel senso che i gruppi particolarmente interessanti a Verona che stanno dicendo qualcosa non ce ne sono tanti, non ci sono neanche le strutture per farlo, quindi non è che è colpa di qualcuno. Non so, mi viene in mente il Puglia Sounds in Puglia, in cui la regione sta sborsando, non so tecnicamente di preciso con che soldi, però sta dando tanto e questo aiuta. Poi ho ascoltato la compilation di Puglia Sounds l'altro ieri, sì, a un livello è un livello che personalmente ritengo bassissimo, però comunque c'è comunque un però è ci un sono delle strutture, eh? Esatto, a Verona o comunque in Veneto ci sono tanti gruppi, però insomma mi hai chiesto proprio nel caso specifico di Verona, non possiamo di sicuro dire che sia una situazione molto stimolante. Una volta c'era il Verona Beat, sì, certo. Molti anni fa, forse l'ultimo gruppo interessante di Verona, che è uscito da Verona, sono appunto i Gatti di Vicolo, appunto Verona Beat. Dai, no, sto scherzando, ci sono state realtà molto buone, ci sono dei musicisti bravi, cioè musicisti singoli sono Zeno bravissimi, Rossi, ce ne sono parecchi, ce ne sono tanti, insomma, ma anche avete di progetti, anche il Massimo Bubola da quelle parti, esatto. No? Sì, sì, però insomma se vogliamo essere non ci esprimiamo, io mi cioè, però dentro. Per fare le prove o andare a suonare ti conviene andare in Lessinia, in mezzo al bosco, in mezzo alla campagna, sì. Perché in città noi prima di Verdelegno abbiamo fatto, prima di andare in studio per Verdelegno abbiamo fatto tutto un ciclo di prove proprio bucoliche sul prato, a casa, ex casa di suo padre, che era in un posto splendido, meraviglioso, c'era una vista proprio grandangolare, fantastica, e lì sono venute tante idee che poi in Verdelegno hanno trovato espressione. E recentemente nel nostro tour baltico, che magari spiegheremo dopo un po' che cos'è stato, abbiamo filmato una nostra versione live di Airone, che abbiamo suonato qui prima, in un bosco, proprio tipico bosco baltico, quindi pieno di... Betulle e abeti rossi. Abeti rossi molto alti, molto alti. Bene, allora ci prendiamo una pausa ascoltando qualcosa dal vostro disco, e quindi adesso il turno di Ho prugne per la testa. Eccolo qua. Rock Wave, l'onda del rock. Che mi prendessi tutta l'acqua. La faccio scorrere prima, fredda e rapida che scrosti, fino all'ultima rabbia dalle vene sto accumulando grasso per riempire un po' la pancia e seduto ridere dal piatto della mia bilancia. Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Anker sono qui a Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale chiamata Rock Wave, l'onda del rock. Noi siamo sempre Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, ci siamo ascoltati questo Ho prugne nella testa. E allora, un titolo che veramente fa un po' sorridere, però poi la musica, diciamo, fa pensare, ti mette in religioso ascolto. Sì, è il contrario della comicità, anche se effettivamente il testo può far pensare a immagini comiche. Il titolo. Cosa ho detto? Il testo. Il testo. No, il titolo. Scusate. Sì. Perché no, è l'unico testo che non è farina del nostro sacco, diciamo. Perché l'ha scritto mia sorella, che di solito non scrive testi per la musica. Dopo un viaggio durato un anno in Nicaragua aveva iniziato a scrivere, e tra i suoi scritti, diciamo, che non sono appunto a livello professionale ma sono emozioni e sensazioni messe su carta, c'era questo testo che secondo me ben si adattava alla musica. Gliel'ho chiesto, gli ho detto: ma secondo te potrei provare a utilizzarlo per una nostra canzone? Lei è stata molto contenta ed è stato tra l'altro l'unico caso in cui ho messo musica su testo già fatto. Di solito noi partiamo, almeno io personalmente mi sento molto molto molto di più musicista strumentista che paroliere. Molto Battisti, Don Mogol, sono praticamente. Visto che Battisti scrive la musica, dopo Mogol gli scrive il testo. Esattamente, esattamente. Certo. Allora, prima partire da un testo è stato molto interessante. Lei poi è stata contentissima dell'effetto, perché proprio ha trovato nella musica che ho scritto il giusto accompagnamento a quello che lei sentiva, e derivava tutto da una storia d'amore all'epoca finita male, ma che poi per fortuna è ripresa, che E quindi salutiamo Eleonora. Esattamente. Ciao Eleonora. Ciao Ele. Bene, allora a proposito di saluti, dobbiamo anche salutare il nostro direttore artistico, tramite il quale voi siete qui questa sera, quindi un grazie. Un ciao. Ciao a chi, Maurizio? Ad Alberto Frisco, eccolo qua, che ricordiamo essere presente all'interno della nostra programmazione serale di Blu Radio Veneto il giovedì sera. Sì, musicalmente hai detto giusto, Flavio, musicalmente un pezzo piuttosto profondo, posso dire questo? Profondo, al di là del testo, importante, un testo profondo, cioè musicalmente profondo, che ti entra, che ti prende, che ti avvolge, possiamo dire. Beh, è stato uno dei brani con la lavorazione più lunga. Sia in termini di arrangiamento che si sono sentiti, credo l'unico pezzo dove ci sono sia archi che fiati come strumenti, diciamo, di sovraincisione, che non abbiamo suonato noi. È orchestrato praticamente. Sì, è orchestrato, anche... anche quello deriva un po' da studi musicali che abbiamo fatto, tendenza ad avere un approccio non solo pop, ma anche appunto che va probabilmente in maniera contaminata, non pura, però va a prendere anche da studi più classici, quindi magari anche da proprio studi di orchestrazione, quindi un gusto che abbiamo nel cercare certi tipi di arrangiamento, e in Prugne nella testa era il pezzo che più secondo me si adattava proprio ad aprirsi. Noi scherzavamo in studio, dicevamo alla Sanremo, ma insomma era ovviamente ironico, perché anche il minutaggio era un po' sopra Sanremo, però 3 minuti e 44 al massimo è già tantissimo. Si sentiva molto presente anche il flicorno. Esatto, sì. Esatto. Non è uno strumento, strumento tra l'altro che abbiamo usato anche in Grembiule, il nostro primo EP. All'epoca era stato un po' un caso, nel senso che volevamo una tromba che suonasse la melodia del cantato, e questo musicista che all'epoca ci ha dato gentilmente la sua disponibilità aveva anche un flicorno, ci ha fatto sentire il timbro, e il flicorno è uno strumento molto simile ma con un suono un po' più morbido, e bene si adattava. E lo stesso il caperrone? No, all'epoca era Giordano Sartoretti. Qua c'è il caperrone. Qui invece c'è Luca Perrone. Tanti dei musicisti appunto sono compagni amici del Conservatorio di Verona, quindi strumentisti presi in prestito, diciamo. Già che ci siamo li ringraziamo e li salutiamo, sono Federica Furlani alla viola, Mark Pagnozzi al violino, Nicola Monti al contrabbasso, il precitato Federico De Vittor al vibrandoneon e Luca Perrone alla tromba e flicorno. Basta, gli hai detto. Basta. Gli ho detto tutti. Gli ho letti tutti. Adesso, come previsto nella scaletta, vorrei mettere in sottofondo musicale, mentre parliamo, anche un vostro pezzo che è comunque completamente strumentale. Vediamo se riusciamo anche a trovare comunque le sonorità appunto che caratterizzano il suono Anker. Un brano che si intitola Gnao, che non so se sia onomatopeico al 100% o cos'altro, comunque è un qualcosa che suona bene in veronese probabilmente. non ha significato. Potrebbe essere fine di Magnao, ma no, non esiste. È Magnao. Oppure poteva essere un saluto, tipo un ciao, un po'. È vero. Gnao. È più un suono animalesco, gnao. Gnao, ecco sì, un gatto che saluta. Che tra l'altro... Sì. Se lo sentiamo adesso in sottofondo, questo gnao, queste botte di elettronica derivate tra l'altro da in maniera inconsapevole, nel senso che appunto questo pezzo ha una genesi molto particolare. È nato da un'improvvisazione che ha fatto Giulio alla marimba al conservatorio a Venezia, e l'ha modificata elettronicamente, è diventata qualcosa di completamente diverso, e io ci ho improvvisato sopra in Austria, a Graz, nel Dipartimento di Musica Antica, con un organo positivo, che è un organo sempre manuale come gli organi da chiesa, però piccolino, con pochi registri, e dove fissando i tasti con dei pesi si può giocare allora solo su tirare manualmente i registri verso di sé, e questo crea queste piccole variazioni microtonali, quindi differenze di tono che sono più piccole del semitono, e quindi quest'aria, questa sensazione un po' di sperimentazione o orientale. A proposito di questo, si sta celebrando l'anniversario di John Cage adesso, ecco, recentemente, proprio qualche giorno fa, e John Cage ha fatto queste sperimentazioni. Poi tantissimo col pianoforte preparato. Esattamente, quindi l'ha sempre fatto. Che poi è un po' come tantissimo torturare lo strumento musicale, ma se sa che sì, anche perché Zeno mi diceva durante che registravamo, tira quella roba, mi faceva i segni tipo tira in fuori quel, che io non capivo niente, tiravo fuori dei tastini. Sì, perché è bello, perché funziona manualmente questa cosa, tu accendi il motore va, premi i tasti con dei pesetti, però finché uno non tira indietro un registro nulla suona, però il motore va, appena tu tiri indietro un registro vuol dire che meccanicamente il tubo d'aria si apre e il suono inizia ad andare, però normalmente la gente tira del tutto il registro verso di sé e poi inizia a suonare. Noi abbiamo fatto il contrario, abbiamo prima premuto i tasti e poi lentamente abbiamo tirato il registro in modo che si sentisse gradualmente tutto quello che intercorre tra il silenzio e il suono tradizionale. Quello che ci sta in mezzo è gran parte del suono di Gnao. A me viene in mente, molti anni fa, proprio qui vicino al teatro Pio X, un certo personaggio, si chiamava Franco Battiato, aveva presentato Messia del Gladiatore, che voi forse non sapete o forse sapete, ha una facciata unica all'epoca. Lui aveva un organetto piccolissimo, era seduto su un panno rosso e ha continuato per un'ora a fare i suoi suoni. Lui ha vinto premio Stoccause, quindi molti anni fa, quindi anche quello era una certa sonorità decisamente d'avanguardia, se Madonna, possiamo chiamarla poi, così. Poi Battiato ho scoperto abbastanza di recente che è un grande amante di Scelsi, che era un compositore ottimo, immenso compositore italiano che faceva sperimenti molto simili, solo che tanti decenni fa. Ricordo quindi anche un po' Pollution, no? Quindi è sempre Battiato, decisamente. Benissimo, allora abbiamo tenuto in sottofondo musicale Gnao, mentre ricordo che per ascoltarlo per intero con le proprie cuffie c'è la possibilità di entrare in possesso del CD. Perché non ricordare anche questo, carissimi Anker? Come si fa? Sul sito anker.it, cioè sulla home page, c'è la possibilità di acquistare il nostro album in due versioni, quella digitale sul Bandcamp e quella invece fisica, dove dopo noi artigianalmente, come abbiamo detto prima, produrremo il disco. E ricordiamo il suono del disco? Esatto, è di legno, non abbiate paura, perché comunque li spediamo noi. Sì. E ovviamente viene data la nostra mail, potete scriverci se arriva per caso difettato, così, quindi li impacchettiamo noi, anche se non arriva, se arriva in ritardo ci sentiamo direttamente, tanto non è che ce ne sono 100 da vendere al giorno, quindi se si può stare dietro personalmente è una produzione locale, quindi chilometro zero, facciamo anche un negozio personale, cioè ci conosciamo anche, se volete, basta fate domande, è caduto uno shake, non era straordinario. Allora, come ricordavamo prima, gli Anker sono venuti qua muniti di strumenti musicali, oltre che di CD in formato legno, per farci ascoltare alcuni pezzi del loro Verde Legno, si intitola così, quindi adesso cosa tocca? Torace e brace. Eccola qua. C'è un'impronta di animale. Adesso grido all'altro monte che il versante mi congela dove il sole li batteva. Intanto il bosco si appiattiva fino al primo strato d'erba che seccando si moriva. Piove, gela, scalda, amore, beve. senza pace, in fondo nel torace un altro giorno c'è l'abbraccio, e non so più come accettare dove il nuovo scala al vecchio, sento il vuoto dell'indietro e la stagione va di fretta, piove, gela, scalda, amore, bevo l'attimo che tace nel torace un altro giorno c'è l'abbraccio. Non c'è più niente da scoprire se non spingere più in alto la mia voglia di partire. Ora mi chiudo in una grotta ancora fresca e c'è un concerto di un solletico di gocce. Uscendo fuori lì che trovi il ramo chiuso dal cemento che ti graffia fino al mento. Il cielo grigio si sta aprendo un nuovo vetro, chiude il vento ma la luna si fa doppia. Scalda amore, bevo mirti senza pace, in fondo nel torace un altro giorno c'è l'abbraccio, e non so più come accettare dove il nuovo scala al vecchio, sento il vuoto dell'indietro e la stagione va di fretta, piove e la scalda amore, bevo l'attimo che tace nel c'è un altro giorno, c'è la pace. Sono le 23:20, sempre con Blu Radio Veneto all'interno di Rock Wave, l'onda del rock. Ancora buonasera a tutti, io sono Flavio Bilato, assieme a me Maurizio Calzavara, assieme a noi gli Anker per la presentazione di questo album che si intitola Verde Legno, che è comunque datato 2011, visto che stiamo già parlando anche di quello che potrebbe essere un prossimissimo disco di cui ancora, diciamo, il contenuto ci viene parzialmente svelato, la confezione non ancora, ma stiamo a vedere. Io non la dico adesso, in verità. Ma quella non si può dire. Non si può dire, no, non si può dire, e sarà una sorpresa. Sarà una sorpresa. Dico quindi... solo altro che legno. Altro che legno. È un indizio praticamente. Abbiamo tutta l'estate per pensare. Qui ci siamo incastrati da soli. se poi non va il progetto che abbiamo adesso. No, va di sicuro. È l'unica cosa che abbiamo del col disco d'amianto. Che è l'unica cosa certa che sappiamo del disco. Fino benissimo. Allora, torace e brace, una parola unita che ha due elementi insieme. Quindi il torace e la brace. Chi può vedere il vostro sito internet può invitiamo tutti gli ascoltatori a vedere anker.it. All'interno del vostro testo c'è subito un'immagine con un uomo seduto, diciamo un po' alla yoga, chiamiamola sì. Così, ecco, e con un fuoco proprio all'altezza del torace, e quindi proprio quella è l'indicazione della brace. Quindi esatto. l'avete tradotta così, proprio un cuore infiammato che rende forte tutte le emozioni. Sì, esattamente così, è proprio come dice anche il testo stesso, Poi dove il nuovo, in verità è anche un po' un inno al passato, cioè un inno al passato, alla voglia del ritorno un po' alle radici, al ritorno indietro. Nel torace c'è la brace perché fondamentalmente non si riesce più a vivere certi valori, certe tradizioni così che c'erano solo nel questo passato. Non vogliamo sembrarvi dei tradizionalisti perché qua certe tradizioni del passato no, c'è proprio lo spirito passato, cioè per esempio anche mia nonna mi ha sempre detto che loro si divertivano di più perché avevano poche cose e me l'ha sempre rinfacciato: ah, voi vi stufate perché qui massa roba. Sì, ma sono cose che diciamo anche noi nei confronti dei ragazzi, dei adesso. Piccoletti adesso, okay, per cui ci sono valori diversi. Ma infatti non è che rinfacciamo il passato, semplicemente questo è un po' un inno alla voglia di poter vivere anche solo per un giorno in un sogno, perché è decisamente un sogno. Cioè questo si ricollega a quello che dicevamo prima sui sogni, le loro strutture. Decisamente un sogno. Quindi un risvegliarsi di qualche anno indietro per capire come funzionavano le cose. Sì, cioè la frase più forse significativa è dove il nuovo scala al vecchio. Insomma, dove il nuovo scala al vecchio. Musicalmente avete fatto il botto perché tutti i critici sono rimasti entusiasti di questo pezzo. Qui adesso l'avete eseguito qualche secondo fa. Secondo noi che non siamo critici, ma è un trip psichedelico acustico. Avete fatto un trip psichedelico acustico, soprattutto te che hai fatto un gioco con i piatti. Ascolto e nel mentre sento come sta venendo il pezzo. Ogni volta noi non siamo di quei gruppi che io soprattutto non sono di certo un batterista batteristico, cioè so il riff, il feel, no? Il passaggio e lo faccio uguale, non farò mai un passaggio uguale a quello del disco. Non ce la faccio neanche proprio. Torace e braccia cerchiamo di rendere con i pochi mezzi che abbiamo dal vivo in un pezzo aperto, contesto così, un pezzo che invece in studio ci siamo divertiti tantissimo a fare. In studio abbiamo fatto su torace e braccia veramente una quantità di, cioè era un progetto mostruoso. Il nostro fonico, diciamo di nuovo, Francesco Ambrosini, che ringraziamo tantissimo per la pazienza, lui ci ha odiato durante le registrazioni di questo pezzo perché avevamo fatto due progetti diversi, i ritornelli in un progetto, le strofe, l'intro e l'outro in un altro, e c'era una quantità di sovraincisioni veramente mostruosa. Le voci, avevamo registrato ognuna delle nostre tre voci 5 volte, tante chitarre, tanto di tutto, e in più qualche inserto anche lì di flicorno, tromba, vibrando neon, organetti, cioè un po' di tutto. E per quello è piaciuto ai critici. È molto ricco, è molto ricco. È stato un progetto molto rischioso perché fino a metà della fase di mixaggio pensavamo di dover cestinare o comunque eravamo in alto mare perché avevamo registrato una quantità di materiale immenso senza sapere di preciso dove andare a parare. Sapevamo più o meno cosa volevamo ottenere alla fine, ma non era, la via era ancora abbastanza sporca, e nella fase di mixaggio dopo le cose si sono chiarite, per fortuna ne è venuto un pezzo che credo sia anche uno di quelli che più volentieri ascoltiamo da disco. Adesso suonarlo magari inizia pian pianino. Lo suonate così come abbiamo fatto stasera oppure lo suonate in modo diverso? No, più o meno così. Ovviamente questa era la versione unplugged. Quando poi abbiamo attaccati magari c'è pedali. Comunque sì, io suono la chitarra, non suono la batteria. Come nel disco c'è proprio la batteria in tutto il brano. Invece suono con la chitarra e con i piedi. Un po' amplificata la chitarra? Alla batteria con questa chitarra, che è una chitarra classica, modificabile, ovviamente non la potete vedere, e con i piedi e batteria con cembalo. Benissimo. Poi Tobia è attaccato ai suoi 10 pedali. Vabbè sì, quindi, Tobia ha un sacco di pedali, oggi quello non fa la differenza. Oggi è Sandra. Di solito è il Sonic Man. Allora, prima abbiamo parlato appunto di chitarre, abbiamo parlato di banjo, di flauti, di flicorni, abbiamo parlato anche di theremin. Non abbiamo ancora parlato del segaccio musicale. È passata già un'ora e mezza di trasmissione. È vero. L'ho visto. Adesso ci sarà volevo sentire questo segaccio musicale, tanto per far sentire anche gli ascoltatori di cosa si tratta. Quindi adesso per prima cosa viene fuori l'arco. Seconda cosa... È proprio una sega tradizionale questa, una di sentiamo un segaccio vero che sega, taglia. Bene. Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Fantastico, il segaccio musicale l'abbiamo ascoltato, era proprio una sega tradizionale con tanto di archetto, penso classico per una viola o per un contrabbasso, oppure fatto per artigianalmente viola. Per viola, ecco, quindi abbiamo svelato anche questo, sì, sembrava quasi una prova. Infatti sì, sì. Però se uno può permettersi l'arco da contrabbasso, cosa che noi Junker abbiamo difficoltà a poterci permettere, suona meglio. Bene. Perché ovviamente arco più lungo, suono più grosso. Anche quelli da violino la fai suonare. Sì, no, ovviamente certo, io certo, adesso questo archetto non ha più i crini perché c'è una striscetta di 5 si, si sta consumando non, un po' alla non volta. C'è la pece, non si tira neanche bene, è un archetto da 10 euro veramente, quindi... Ma così, insomma. Perfetto, tanto per far suonare. Esatto. Sembrava quasi un artista di musica lirica che stava facendo le prove in questo caso. Sì, sì, sembra proprio un canto. Sì, un canto. Comunque, uno degli esempi più belli è molto nel stregato film, anche, nel film no? Delicatessen. Sì. C'è veramente lì metà della colonna sonora è suonata con il segaccio in una maniera magistrale. Proprio bellissimo. Bene, uno strumento usato pochissimo che però in certe situazioni... Forse sentito... una volta ci facevano l'arrivo degli alieni nei vecchi film anni 30. Piuttosto che qualche spiritello... Perché sembra un theremin verità, assomiglia molto al theremin. Oppure può essere sirenico... Solo che è meccanico, cioè non è elettronico. È un theremin alla fine come concetto. Bene. Fantastico, comunque mi è piaciuto, pensavo ci fosse più un'atmosfera un po' tipo ondulata, in realtà è... No, infatti è più... ho anche esagerato troppo col vibrato che tendo... Dai, col vibrato! che tendo a non fare perché è molto più bello il suono della sega, secondo noi, penso tutti, secondo tutti, continuo. Anche come la voce, insomma. Si poteva stare nei film Dario Argento. Esatto. Esattamente. Vibrato. Noi siamo una band contro il vibrato. Perfetto. In generale. Vabbè, dai. Allora, ancora spazio per la musica degli Junker, sempre da Verde Legno, un altro pezzo da disco. Questa volta ci ascoltiamo Tiglio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ancora Rock Wave, ancora con Flavio Bilato, Maurizio Calzavara e soprattutto gli anchor protagonisti di questa serata, con Giulio, Zeno e Tobia qui all'interno dei nostri studi con tanto di strumenti musicali. Questo è un pezzo, Flavio, sì, che ci ha proprio preso. Io e Alberto abbiamo deciso di lanciare il disco con questo pezzo. Bello, romantico, avvolgente, poi questo finale islandese, assolutamente islandese. Con pezzo. Quanti glockenspiel è stato costruito il finale? Uno suonato molte volte. Suonato all'infinito. E poi c'è anche un effetto... È stato un principio usato in vari... Anche gli archi, non avevamo un quartetto, avevamo due... musicisti che però hanno suonato varie parti, quindi era un quartetto virtuale, e la stessa cosa per il glockenspiel. Beh, poi c'è anche una traccia del glockenspiel, tornando al glockenspiel, pezzo che ha un delay pazzesco, quindi insomma si ripete, certo. Impasta tutto. Anche mi dicevi però in studio ha avuto delle difficoltà sto pezzo, vero? Sì. È nato un po' con delle difficoltà. Problemi di hertz e di griglia, problemi ritmici e di intonazione che ci avevano... Sì, fatto disperare un po'. Abbiamo dovuto rifarla dopo anche parecchie c'è... ore. Credo che abbiamo buttato via una mattina per questo pezzo. Quindi un pezzo all'apparenza semplice, che però in realtà invece non via... facile. Non sì, facile. Ma perché abbiamo fatto proprio un errore di accordatura. Siccome è un'accordatura particolare questo pezzo, poi dopo avevamo delle registrazioni di vibrafono, come all'inizio l'altro che c'è proprio delle note di, quindi non potevamo accordarci sulla chitarra di Zeno, che era stata accordata non a 4,40, non so perché, non ho la minima perché idea perché probabilmente l'accordatore era andato, quindi non era a 4,40 e abbiamo dovuto rifare tutto. Invitiamo ancora i nostri ascoltatori, oltre che ascoltare la trasmissione, anche andarsi a vedere il sito, perché veramente sono dei ritratti davvero originali quelli che si presentano nei testi. In questo caso con Contiglio c'è proprio l'elaborazione di un albero, no? In questo caso, e con una raffigurazione delle davvero... api di sicuro. Sì, delle api che sono sotto, che stanno pian pianino avvolgendo il Tiglio, insomma, cosa davvero interessante all'interno di Anchor.it. Ma parliamo delle vostre esibizioni live, prossime e future, che impegni ci sono in giro? Ma in realtà adesso abbiamo pochi concerti, ma perché è stato un periodo ricco di concerti fino a poche settimane fa, nel senso che siamo stati in tour nei Baltici, siamo stati via più di 20 giorni, e venivamo da tutto un anno. Da novembre 2011 è uscito il disco, già dall'estate scorsa aveva iniziato a suonare, quindi è tutto un anno che stiamo in giro a suonare tutti i weekend per l'Italia. E poi appunto si è presentata quest'ultimo mese scorso questa occasione per un progetto di scambio culturale che si chiama Diplomart, fatto da alcune ragazze, di cui una di Verona che salutiamo si chiama Ginevra, che è appunto la ragazza. Ringraziamo che c'ha... tantissimo, è diventata la nostra manager per l'estero. Per l'estero, esatto. Per la Russia. Esatto. E che ha fatto partire questo progetto di scambio culturale con band dei Baltici con l'Italia. Noi siamo la prima band che è andata su. Abbiamo appunto suonato in Estonia, in Lettonia e Lituania. Ed è stata un'esperienza incredibile, sia per il fatto che non c'eravamo mai stati, sia perché sono dei paesi, delle zone che, come per i discorsi che abbiamo fatto prima, c'entrano con la nostra musica, con le nostre atmosfere, quindi è stato veramente una coincidenza tra virgolette, perché questa ragazza non la conoscevamo prima di questo progetto, quindi è tutto partito molto spontaneo, però invece faceva parte di un discorso molto coerente, diciamo, sì. E quindi appunto abbiamo suonato molto, abbiamo visto dei posti pazzeschi. E niente, questo è il tour baltico. Invece le prossime date saremo suonato al Verona Folk. Sì, settimana scorsa eravamo al Verona Folk, che è una rassegna abbastanza importante del Veneto, dove è venuto Goran Bregovic, Davide Van der Sfros, insomma ci abbiamo suonato anche noi. E a fine mese saremo ad Albano Terme. Ad Albano Terme, se volete venire. E poi a Forlì a novembre, ma per ora ci stiamo lavorando, insomma, alle nuove date del tour, diciamo, sì, che avendo suonato più... anche così tanto, vogliamo un po' concentrarci anche adesso su sì, la produzione, disco, sì, su nuovi lavori. All'inizio avete suonato anche con i Kalla, che è un gruppo newyorkese. Sì. Voglio sapere che esperienza avete avuto con i Kalla. Io li amavo parecchio all'epoca. Eravamo bambini. Eravate bambini. Tanti, tanti. Sarà stato il nostro quarto concerto. 18 anni. Tu avevi 18 anni, io mi sa che ne avevo 16. Ma io e Tobia. No, noi ne avevamo 18 e Giulio ne aveva 20. Sì. Io sono il vecchio del gruppo. Mm. Ma com'è stata l'esperienza con i Kalla? Bello, bello. Bella. No, te lo ricordi? Sì, al tempo io non spiegavo neanche una parola d'inglese. Avevano un bel suono, cioè erano professionali, una band sì, assolutamente professionale, con un suono grosso e tutto. Poi musicalmente a me non hanno impressionato, però... No, beh, però effettivamente ci avvicinavamo molto di più a quel tempo. Sì, certo, ci parla un po' di anni fa. Facevamo pezzi cantati, facevamo solo post-rock. Che loro avevano quella tendenza, avevano quella post-rock, tendenza. Post-rock, certo, molto più power, e quindi insomma ci stava. Beh, era il nostro primo palco grande, più che altro, era quello forse la cosa più strana per noi, è bello. Un gruppo americano con cui abbiamo avuto il piacere di suonare recentemente sono stati Akron Family, che più si adattano invece al nostro stile, sì, certo. Di adesso abbiamo aperto a loro al concerto all'Interzona di Verona e sì, è stata veramente una bella esperienza perché hanno fatto un set estremo, lunghissimo, due ore e mezza pieno di energia, veramente con delle parti molto belle, poi delle parti un po' più psichedelia, anche abbastanza estreme in negativo, nel senso che hanno probabilmente per alcuni, poi magari per altri invece è stato fantastico, hanno serata. Un po' tirato la corda nel senso che sono state delle parti lunghe veramente psichedeliche, ma non all'Animal Collective, non ho idea di chi, alla Akron Family per l'appunto. Benissimo, allora Anker, un'altra canzone live tratta dal vostro Verde Legno, si intitola Sai da quando? Sai è da quando sono sceso che ti penso e non mi sveglio. Vorrei soltanto camminare a fianco a te per non tornare. Aver presente come verde il desiderio della mente. Sapendo che l'autentico che voglio ovunque è solo te. Vorrei essere quella montagna che ti avvolge e poi ti bagna. La prima notte che rimango a immaginarti delle tre. Bocca asciutta perché dentro aumenta il vento che sei te. Mi crespa il sangue che dà vita alla pressione sulle dita. Se mi addormento ti rispondo che il mio mondo non è tondo. Sognando che sul piatto cada polline dal cuore. Saper fermare il tuo colore in un accordo che fa male. Facciando un cerchio ed osservare qual è l'angolo per me. Scoprire qual è il senso che ha il tuo tatto del piacere. Sporgendo il gusto d'assaggiare un'altra lacrima di sale. La bocca bocca asciutta perché dentro aumenta il vento che sei te. Pressione sulle dita, increspa il sangue che dà vita alla pressione sulle dita. Vento che sei te, la bocca asciutta perché dentro aumenta il vento che sei te. Pressione sulle dita, increspa il sangue che dà vita alla pressione sulle dita. Vento che sei te, la bocca asciutta perché dentro aumenta il vento che sei te. Pressione sulle dita, increspa il sangue che dà vita alla pressione sulle dita. Vento che sei te. Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Si intitola Sai da quando, il loro lavoro si intitola Verde Legno, loro sono gli Anker. Allora, Sai da quando è veramente una ballata, forse un esperimento quasi pop di quello che è tutta la vostra... Senza il quasi, sì. Abbiamo il coraggio di chiamarlo così. Il suo nome. Diciamo che forse è quella Sonic che... Pop. Sonic Pop, eccola. Forse è quella che resta più in mente. È quella che piace di più alle ragazze. È quella che piace di più alle ragazze, diciamo. No, ma dai, diciamo anche dal vivo a tutti. Forse. In generale, perché di quelle che emoziona di più. Rock, pop, alla fine... Dal vivo, elettrici, sì. Beh, veramente dal vivo piace molto, soprattutto energica. Per questa coda energia. Energica. Sì, la coda energica, sì. Abbiamo visto per l'occasione che Giulio aveva imbracciato non più le spazzole, ma la parte un po' più dura delle stesse per picchiare bene sul piatto. Era tutta la puntata che fremeva, aspettavo il momento. Finalmente, verso la fine della trasmissione, c'è stato anche questo. No, ricordiamo a proposito di domenica 29 luglio, che voi siete appunto ad Abano Terme, quindi non lontano dalla nostra postazione radiofonica, e dove siete presenti alla Festa Nazionale del Turismo, per cui un buon biglietto da visita per presentare la musica, la vostra musica, che non è semplicemente italiana, ma è già spostata verso l'internazionale, visto che ci avete anche riferito che nei paesi baltici avete avuto un'accoglienza assolutamente positiva. Calorosissima. Bellissima, sì. Ecco, nonostante incredibile il calore... freddo, tra l'altro, riguarda i mesi invernali, perché adesso, per carità, non ci siamo... Non eravamo lì a sudare, a buttarci a mare, cioè, però si stava bene. Non abbiamo mai fatto riferimenti su quella che è la vostra musica, parlando piuttosto che di uno o dell'altro gruppo, perché volevo sentire da voi quelli che sono i vostri gruppi di riferimento, quelli che vi hanno aiutato nella vostra, diciamo, costruzione mentale per fare la vostra musica. Quindi vorrei almeno tre nomi di artisti abbinati anche a dei dischi. So che vi metto a nome in crisi. Di band o di singoli? Ma anche band o artisti no, singoli? No, dicevo, lo diciamo come Anker o come... Come Giulio, come Zeno, esatto. E come Tobia. Singoli. Forse è più facile. Tre a testa, dai, perché so che avete dei gusti anche... diversi. Tobia, parte Tobia. Per... Allora, beh, ovviamente sempre... Il nostro musicologo. Sempre, per quanto sia difficile, quindi è generico, non è assoluto, però così sul momento, poi va a periodi della vita. Sì. Però tra le mie costanti rimane sicuramente Neil Young, in cui potrei, tra i suoi numerosi dischi incredibili, potrei dire After the Gold Rush. Poi si assomiglia all'inizio, all'inizio di carriera era un po' così, un po' così. Poi beh, dei Beach Boys, anche se si potrebbe dire Pet Sounds, vien da dire, dato che l'hanno appena ripubblicato da poco, Smile. Sì, esatto, che è un disco incredibile. E poi, ma non so, in quest'ultimo periodo che sto riscoprendo molto Bob Dylan, mi viene da dire Another Side of Bob Dylan, che è un disco incredibile, come comunque quasi tutti i suoi dischi, soprattutto nel primo periodo. Benissimo, adesso Tobia ha rotto il ghiaccio, tocca a Zeno. Allora, so che domani potresti dirmi dei gusti completamente diversi. Infatti, no? È sempre così. Magari scelgo qualcosa che sia inerente a questo, perché magari in altri ambiti avrei altri lavori, altri magari pezzi classici, moderni. Però restando così in ambito di quello che mi influenza direttamente come lavoro di Anker, direi che Nick Drake, potrei citare di sicuro Pink Moon. Pink Moon, fantastico. Poi, Grizzly Bear di sicuro, gruppo moderno ma che ha inciso tantissimo sul mio modo di fare le canzoni, di questo mi manca, poi prendo appunti, sai? Ecco, allora, l'album è finora l'ultimo, ma sta per uscire a settembre il nuovo, e è veramente consigliabile a tutti di andarlo ad ascoltare, perché c'è in internet, gira un'anteprima che è fantastica. E comunque l'album di cui sto parlando si chiama Vecca Timest, e loro sono Grizzly Bear, un gruppo all'attivo, molto all'attivo, di Brooklyn, che non vedo l'ora di andare a sentire. Purtroppo hanno annunciato il tour mondiale e l'Italia non è compresa. Vediamo se dobbiamo comprare un biglietto per l'estero oppure no. E poi il terzo disco, sarà banale, ma Jeff Buckley, insomma, ha lasciato il segno, soprattutto come vocalità, irraggiungibile, ma insomma, il papà no. Il papà anche, però quel disco lì, Grace, rimane una pietra miliare totale. E non sei il primo che lo dice. Allora, adesso Giulio, ti sei ripreso? Perché queste domande, cioè, io faccio veramente fatica, sono un tipo molto indeciso, e tra l'altro sono molto meno ascoltatore in questo senso rispetto agli altri due, perché forse ho un po', a parte che derivo anche da altre cose molto più diverse, perché io sono anche reggae, ho suonato punk al liceo, quindi anche cose molto più pesanti. Uno dei tre sono i Refused. Esatto, uno dei tre sono i Refused. No, scherzo. Però appunto io li accetto e magari loro, vabbè. E parlo solo di Verde Legno, perché adesso ho delle ispirazioni molto più africane, o ascolto musica africana, così, quindi non andrei totalmente fuori tema. Posso dire Elliot Smith, che più che altro sono gli ascolti dell'Islanda, gli ascolti che ho fatto in Islanda, più componendo anche i pezzi di Verde Legno, così, Elliot Smith, Fleet Foxes e non saprei. L'ultimo o il precedente di Fleet Foxes? No, il primo. Quello che ha fatto. Sì, no, beh, no, primo... doveva ancora uscire. Doveva ancora uscire, però anche l'ultimo. Sì, anche l'ultimo è bello. L'ultimo è il disco del grande successo mondiale. Precedente era un disco della novità. La botta. Esattamente. Come terzo, assurdamente, io amo i testi di Vinicio Capossela, che ho divulgato molto anche in Islanda. In Islanda ho fatto ascoltare molto Vinicio, anche musicalmente. È l'ultimo che è dedicato alla Grecia, cosa del rebetico. Io non l'ho ancora ascoltato. Tu, Flavio, cosa ne dici? Molto. Ma oddio, è particolare. Come tutti gli effetti di Vinicio. Effettivamente, allora io chissà come mai mi sento di aver perso con me stesso la scommessa, perché pensavo che qualcuno di voi dicesse Sigur Rós. Nessuno l'ha detto. In effetti, in realtà nessuno l'ha detto. Prima dell'Islanda, sono stati. Perché lì ho ascoltato di più gruppi islandesi un po' più di nicchia, tipo Mum, Siber, robe così, che erano molto più di nicchia lì, che ho scoperto lì, e quindi anche le Amina, così. Poi, non poi ovviamente... In Saia da quando, nel pezzo che abbiamo fatto pochi minuti fa, effettivamente, o in O Prugne nella testa, effettivamente ci sono proprio tante influenze dei Sigur Rós, che era uno dei tre che volevo dire, però volevo dirne anche uno di italiano, giusto che mettiamo in italiano, ci sta bene. E poi comunque non abbiamo detto perché non è più tanto attuale, probabilmente, però lo sono stati i Radiohead comunque. Beh, perché non sono attuali? No, lo sono assolutamente adesso, secondo voi, rispetto a voi, noi adesso li ascoltiamo di meno. Poi si parte all'inizio timidamente affrontando quelli che sono i vostri gusti musicali, poi si inizia proprio il vero e proprio continuiamo a scaldarci con i microfoni abbassati mentre ascoltiamo un altro pezzo del vostro disco. Si intitola Vieni Su e poi torniamo, ahimè purtroppo, per i saluti. Rock Wave, l'onda del rock. Piazzale sole. Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Si intitola Vieni su, un altro brano del Verde Legno, questo album che suona così, oltre che naturalmente con le musiche preziose degli Anker, che sono stati ospiti all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto, appunto Rock Wave, l'onda del rock in versione live. E quindi ringraziamo gli Anker di questa loro preziosa sortita da Verona per arrivare da noi e presentarci questo Verde Legno, ricordando che esiste il vostro sito internet anker.it per vedere approfonditamente tutti quelli che sono le notizie riservate al vostro gruppo e entrare in contatto con voi sia in maniera, diciamo, virtuale e digitale, quindi scaricando online il vostro disco, sia entrando appunto in possesso di questa copia, adoratissima copia, perché è veramente veramente bella, vi fa onore, fatta proprio di legno e con i marchi a fuoco, come si ricordava prima. Grazie a mille a voi. Grazie, abbiamo deciso di lasciarvi anche un'altra copia di questo, visto che siete in due. Fantastico. Volontari grandiosi. Grazie. Assolutamente. Dopo 35 anni di fedele servizio, di onorato e fedele servizio. Sì. Attenzione a mettere la medaglia che non punga. Vabbè. Allora, abbiamo passato da poco la mezzanotte. Stiamo sforando di qualche minuto, però allora noi adesso chiudiamo i microfoni come speaker, vi lasciamo ancora qualche minuto per il vostro saluto ai nostri ascoltatori. Cosa ci fate ascoltare? Bella Lisbona, che è un pezzo di una voglia di andarcene a Lisbona. Abbiamo avuto una piccola fase dove credevamo di andare a vivere a Lisbona, eravamo molto convinti, molto entusiasti, poi alla fine le cose non sono andate così, ma almeno una canzone è nata ed è il nostro, diciamo, il nostro personale singolo estivo. Quindi abbiamo cominciato per un'estate di che non vuole finire. Volevo ripeterlo. Finiamo io, appunto dire con torniamo. Iniziamo con Madre Deus, finiamo con Lisbona. Benissimo, allora da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, buonanotte a tutti, vi lasciamo ancora con gli Anker, grazie a Giulio, grazie Zaino, mille, Tobia, grazie. Buon rientro nella vostra grande Verona e quindi adesso Bella Lisbona, Anker a Blu Radio Veneto, grazie. Grazie a voi. Sai che fare, vuoi venire a lavorare in fondo al mare, la schiena lurida di sale sporca d'olio della nave, poi ritorno e solo il primo giorno rido ma il secondo. Questo è un anno e si riparte, vuoi provarla e ritrovarti dove vivo un solo fuoco e qualche resto di balena per portare indietro al faro tutti i sassi che hai rubato. Ma perché te ne vuoi scappar via dall'Italia? Se qui ci sono i fichi, i cachi, i kiwi, il pane fresco e di babà. Capisco se la realtà ti pare piana, ma una bella bionda che sarà si mangia vodka e ballerà. Bella Lisbona è la meta che chiama da sé, da quando sono sedicenne ascolto fado di balene cacciate, bistecche spremute, ma sì, un uovo crudo nella pancia presto che è già lunedì. Ra ta ta ra ta ra ta ta ra ta ta ra ta ta. Rock Wave, l'onda del rock.